24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:31, eccoci, buona settimana, buon lunedì 17 maggio e ben ritrovati a 24 mattino, siamo in diretta fino alle 9. E allora il nostro sondaggio di oggi, partendo dalle polemiche, la vicenda della lista Nemone, le case, i VIP, tutto quello che è in fermento nella politica, oggi vi chiediamo: secondo voi è una nuova Tangentopoli quella a cui stiamo assistendo? Dovete votare su radio24.it, nell'home page ci trovate bianco o nero e ne parleremo poi alle 8:30. Intanto votate e andiamo a scoprire cosa ci propongono i giornali. In primo piano c'è la politica che detta un po' i titoli di prima pagina. Per il Corriere il tema è sempre lo stesso per tutti: Bossi chiude la porta a Casini. Anche per Repubblica: Bossi no a Casini è come Fini, uguale il titolo sulla Stampa: Bossi stop a Casini è come Fini. E il Messaggero: Bossi inutile, Casini nel governo. Ma il grande tema, che poi è quello più interessante oggi sviluppato dai giornali, è quello della manovra, dei tagli, di come reagire alla situazione di crisi. Intanto il Sole 24 Ore del lunedì ha un titolo azzeccato: affari comunali monopolio, e vedremo perché questa inchiesta sulle società pubbliche compartecipate però dagli enti. Vedremo dei numeri molto interessanti. Servono tagli, non elemosine. Questo è il titolo di apertura del giornale, mentre il trasformista è Berlusconi con tante maschere dipinto sull'unità. Manovra demagogica, il governo dice di voler ridurre i costi della politica, i numeri dicono che li ha aumentati a dismisura. Per l'appunto, come detto, la politica è tutta incentrata su questo no di Bossi, che boccia l'apertura a Casini. Un'apertura possibile, pare che Berlusconi stia pensando di cooptare nel governo in qualche modo Casini. E Bossi ha detto no, lui è come Fini. Su Repubblica, pagina 3, Carmelo Lo Papa dice: il retroscena di Berlusconi è: ma certo, Umberto parlava alla sua gente, non mi attendevo nulla di diverso, ma lo convincerò io. Anche se Casini in realtà anche ieri ha detto: ma di cosa stiamo parlando? Non si è ancora capito che la cosa non esiste, non ci comprano con le poltrone. Insomma, la politica è tutta qui, questo è il nodo della giornata, mentre ovviamente continua l'inchiesta e continuano le anticipazioni, le notizie sulla cosiddetta lista Nemone, sull'inchiesta sul G8, sulla vicenda che coinvolge anche il coordinatore del PDL Denis Verdini, che dice: non ho tesoretti all'estero, non ho conti all'estero, come qualche giornale ha fatto sospettare. Il nuovo sviluppo che trovate oggi sui giornali: la pista dei soldi versati allo IOR e l'indagine dei PM bussa in Vaticano. Anche questo per Repubblica, ma anche il Corriere: Anemone, i fondi neri della cricca, i PM cercano nella Banca Vaticana e ne arriva una rogatoria sul Vaticano, quindi una rogatoria internazionale per accedere ai conti sullo IOR. L'escamotage, secondo il Corriere, era questo: per mascherare le ristrutturazioni degli appartamenti dei clienti importanti, compresi alcuni esponenti del Vaticano, Diego Anemone avrebbe adottato come escamotage appunto la falsificazione dei documenti, firme false sulla DIA, vale a dire le denunce di inizio attività depositate presso il comune. In questo modo si creavano anche dei fondi neri. Comunque, questo tra l'altro è il tema del nostro sondaggio: c'è una nuova Tangentopoli in arrivo, siamo agli inizi di una nuova Tangentopoli, questo vi chiediamo. Ma come detto, il tema che è affrontato maggiormente dai giornali, con commenti, con notizie, è quello di che succederà sulla questione dei tagli. Perché sapete che c'è una manovra correttiva in studio da parte del ministro Tremonti, che ieri ha fatto un comunicato molto secco a dire: sono tutte voci confuse, confusionarie e infondate quello che si sente in questi giorni. Taglia le pensioni, taglia la spesa pubblica, tagli agli stipendi dei funzionari pubblici, tagli ai parlamentari, tagli di qui, tagli di là. Al momento, insomma, non c'è nulla di concreto, tutte voci in circolazione, confuse e confusionarie, le ha definite Tremonti. Nessuna decisione è stata presa. Certo, però, qualche decisione verrà presa presto ed è allo studio. Per esempio, il ministro Brunetta ha fatto sapere che lo slittamento delle finestre per le pensioni di anzianità è allo studio. Ridurle da 2 a 1 nel 2010 farebbe risparmiare quasi 1 miliardo di euro. Sostanzialmente le parole di Brunetta sono queste: il ritardo di qualche mese per chi aveva deciso di andare in pensione è un sacrificio, chiamiamola piccola iattura, ma non mi sembra una cosa insopportabile di fronte a tutto quello che sta succedendo in Europa e in giro per il mondo. Questo ha detto Brunetta. C'è un'altra che cosa? I tagli alla spesa pubblica, per esempio, ovviamente sono allo studio e sono sempre ben accetti da tutti gli italiani. Il budget dello Stato per il 2011 prevede una spesa di 509,2 miliardi di euro, una sforbiciata dell'1%, scrive Mario Sensini del Corriere della Sera, consentirebbe per esempio un risparmio di 5 miliardi, quindi con un taglio dell'1% della spesa pubblica si risparmierebbe 5 miliardi, visto che la spesa pubblica è sui 509,2 miliardi di euro. Nel pubblico impiego poi rinnovi del contratto scaduto nel 2009 non hanno ancora copertura di bilancio, quindi un loro eventuale congelamento non porterebbe alcun risparmio. E diciamo che ci sono, che ne pensano tra l'altro i pensionati? Piccola iattura, effettivamente adesso ci penso, ha detto Brunetta, no? Il congelamento, il ritardo di qualche mese per chi aveva deciso di andare in pensione non è un sacrificio, è una piccola iattura. Dopo tutto però c'è la crisi. E allora, come detto, le ipotesi di taglio ci sono su tutti i fronti. Per esempio, quella che più sta facendo discutere è anche quella che Calderoli ha detto facciamo agli stipendi dei parlamentari, 5% degli stipendi dei parlamentari. Allora, l'ha detto, dopodiché si sono scatenate una serie di ipotesi, proposte. Il Giornale a pagina 7 addirittura fa così: e i politici fanno a gara chi risparmia di più. L'idea del ministro Calderoli di decurtare il 5% degli stipendi dei parlamentari ha scatenato una miriade di proposte. Secondo il Giornale, le ha raccolte tutte, sono 14 già le ricette proposte. Allora, Calderoli, 5% degli stipendi ai ministri parlamentari. Bossi, taglio degli stipendi ai magistrati. Ignazio La Russa, devolvere un mese di stipendio. L'avete sentito anche in GR. Via un mese di stipendio. Sacconi, associazione obbligatoria per i microcomuni. Bonanni, dimezzamento dei livelli amministrativi, taglio degli enti inutili. Angelo Bonelli dei Verdi, tagliare del 50%, altro che il 50% stipendi di ministri parlamentari. E certo, lui non è il Parlamento e non è neanche ministro. Gasparri, rinunciare a 3 indennità mensili, quindi 3 indennità. Cota, creare l'assessorato antifurbetti per eliminare sprechi e vincoli burocratici. La Santanchè, tagliare del 10% stipendi di ministri parlamentari. Dunque c'è il 5 di Calderoli, il 10 della Santanchè e il 50 di Bonelli, che non è parlamentare. La Brambilla, 5% come Calderoli. Zaia, 5% agli assessori regionali, via tagliare. Franceschini, il contributo di solidarietà sui redditi più alti. Non ho capito bene, ma insomma viene messa così. Allora, Cicchitto, blocco della spesa di regioni, province, regioni a statuto speciale e comunità montane. Le comunità montane spuntano sempre, ma sono sempre lì. Come detto anche Mattia Feltri sulla Stampa, fra gli onorevoli una gara di parole a chi taglia di più. E poi ovviamente, siccome tutti dicono taglia quello, taglia quell'altro ancora, Bossi ha detto per esempio tagliate i magistrati. Allora, Repubblica è andata a intervistare Giuseppe Cascini, il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, il sindacato. Eccolo il nuovo attacco all'indipendenza dei giudici. Ho capito, ma quanto guadagnate? Non c'è nessuna corrispondenza tra lo stipendio di un parlamentare e quello di un magistrato. Il primo, il parlamentare, guadagna almeno il triplo di noi, perché dice Cascini, l'indennità di magistrato è agganciata a quella del primo presidente di Cassazione, o meglio l'indennità parlamentare, che come magistrato più alto è l'unico che riceve quel tipo di emolumento, mentre un giudice guadagna meno di un commesso della Camera, meno di un portaborse di un parlamentare. Guadagna un collega con 15 anni di anzianità 3.500 euro al mese, ma non può svolgere altre attività, Si compra da solo libri, codici, computer, una situazione che si colloca tra le posizioni più basse in Europa. Ecco allora, Cascini risponde così a taglio ai magistrati. Poi c'è chi ha detto tagliare gli stipendi degli authority. L'ha detto Calderoli, cioè via il 5% a noi e tagliare gli stipendi delle authority. Allora la stampa va a intervistare il garante della privacy, Pizzetti. Sì, ho sentito la proposta, parliamone. Il mio stipendio quant'è? Circa 12.000 euro netti al mese. Ah però, 12.000 euro netti al mese. Però, dice Pizzetti, io sono incompatibile con qualunque carica pubblica, professione, consulenza, incarico in consiglio di amministrazione, tutto per 7 anni. Insomma, le authority hanno, se andate a vedere il reddito di molti professionisti, guadagneranno più di me. Le authority, però ci sono authority che guadagnano di più. C'è chi infatti ha lo stipendio agganciato, parametrato a quello del presidente della Corte Costituzionale, dunque si arriva fino a 500.000 euro l'anno per altre authority, mentre Pizzetti, io dico, io sono agganciato al primo presidente di Cassazione come stipendio, guadagno circa 12.000 euro al mese. Insomma, taglia di qui, taglia di là. C'è Luca Ricolfi anche in prima pagina della stampa che comunque dice attenzione, non è demagogia. Certo, la proposta Calderoli del 5% e il profluvio, la miriade di proposte che poi sono seguite, scrive Luca Ricolfi, non risolverebbe, perché risolverebbe, se si vuole, lo fa con un ampio calcolo che vi risparmio, il 2% di quello che serve per tenere i conti pubblici in relativo ordine. Ne rimane il 98%. Però, dice Ricolfi, non è pura demagogia questa proposta, merita di essere presa sul serio anche per il suo significato simbolico. In ogni caso, visto che si parla di tagli, tagli proposti da tutti, tagli che poi in realtà insomma non ci sono quasi mai, è emblematica la storia che la storia e l'apertura del Sole 24 Ore del lunedì di oggi. Intanto la storia è quella sulle auto blu che Antonello Cherchi e Giuseppe Latour scrivono, quelle riforme sempre annunciate e mai partite. Per esempio, ora è la volta di Renato Brunetta. Il ministro pretende una cifra che in tutti questi anni è rimasta segreta come una formula esoterica. Con una direttiva dei giorni scorsi ha intimato che entro il 15 giugno l'esatto numero delle auto blu sia disponibile sulla sua scrivania. Perché si vogliono tagliare le auto blu, ma il mistero esoterico, scrivono proprio Cherchi e Latour, è proprio questo. Cioè non è dal 91 che si cerca di sapere quante siano le auto di rappresentanza, simbolo non solo del, qualcuno dice degli sprechi, ma anche il simbolo un po' più retrivo del potere, no? Dell'emblema del potere in alcuni casi. Dal 91 non si sa quante siano le auto blu. Auto blu e province invincibili sono questi due casi che trattano in questa storia inchiesta, le riforme impossibili, Antonello Cherchi e Giuseppe Latour sul Sole 24 Ore, le auto blu e le province, di cui si parla di tagli da decenni e poi sono ancora lì, belle, sane e prosperose. In primo piano. Non si ferma la corsa delle SPA pubbliche. Allora parliamo di tagli. Tagli è la parola del giorno. Tutta l'Italia vede e cerca di capire dove si andrà a tagliare. E tutti hanno una miriade di proposte, non mancano di farcele sapere. Tutti questi tagli dove dovrebbero essere fatti. Poi vedremo in concreto. Allora, pagina 2 e 3. C'è un'economia che non conosce crisi, scrivono Antonello Cherchi e Gianni Trovati. Rovesci dei mercati, norme sempre più restrittive, non hanno frenato l'impegno capitalista di pubblica amministrazione ed enti locali. Capitalista si fa per dire, che anche nel 2009 ha continuato a intensificarsi. Che cosa succede? L'elenco degli enti partoriti dalle pubbliche amministrazioni si è allungato ancora rispetto al 2008, da 6.752 enti siamo arrivati a 7.106 enti, un più 5%. Ovviamente questo va a ingrossare il numero degli amministratori, sono almeno 25.000, va a ingrossare ovviamente il numero degli stipendi, delle prebende, perché insomma vogliamo dare anche ovviamente uno stipendio a chi lavora in una pubblica, in una società compartecipata alla pubblica amministrazione. Per esempio, il consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano dell'Adda ha 100 100 soci. Per carità, non sto dicendo guadagnano o non guadagnano, magari guadagnano un euro simbolico, non lo so. Il Consorzio Energia Veneto, settore di intervento di energia, 96 soci. E così avanti, il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi, 79 soci. La rappresentanza è folta, ci sono tutte le notizie a pagina 2 e 3 del Sole. Le società diventano sempre più numerose, le società compartecipate dalla pubblica amministrazione. Tagli, la chiudo la questione dei tagli, prima di ancora due notizie di politica. La questione dei tagli con la vignetta di Staino, pagina 3 di L'Unità. C'è un funzionario che apre una valigia piena di denaro. Non facciamo i furbi, a questa mazzetta manca della roba. E quello che gliel'ha portata? Un taglio del 5%, per dare l'esempio al paese. A questo proposito, due interviste di politica. Formigoni, sul Corriere della Sera, fa un'intervista, pagina 6, le riforme, il federalismo, siamo pronti a partire anche da soli. Ci diano il potere su scuola e ambiente. È arrivata l'ora del federalismo differenziato, che è il vero federalismo, dice Formigoni in questa intervista a Maurizio Giannattasio. E cioè, chi è pronto, parta. Noi siamo pronti, vogliamo partire. Una deroga, insomma, per partire subito. Chiedere il trasferimento di 12 materie da esercitare in piena autonomia. Subito, perché siamo pronti. Ma così mettete a rischio l'unità del paese. Credo nell'unità d'Italia, ma credo in un'unità non più centralista. Devono cominciare i 50 anni dell'Italia federalista, dove le regioni riconoscono di essere differenti. Noi siamo stati molto pazienti. Basta a lacci e lacciuoli che impediscono di camminare a una velocità più spedita la Lombardia. Beh, interessante il messaggio politico, anche a far molta concorrenza alla Lega. Partiamo anche da soli. È previsto da una legge, dall'articolo 116 della Costituzione riformata dal centro-sinistra del 2001, una possibilità, insomma, di partire noi prima degli altri. Facciamo gli apripista del federalismo. Mentre parla la moglie di Scajola, a pagina 4 di Repubblica, dice: lui è un granello di sabbia nella tempesta, la verità è un'altra, la scopriremo presto. Vabbè, andremo a vedere. Mentre dopo il no di Emma Marcegaglia alla proposta di Berlusconi di sostituire Scajola, La Stampa dice che, a pagina 4, l'ultima tentazione del Cavaliere sarebbe Luisa Todini, imprenditrice, una fedelissima della prima ora, definita da Maria Corbi una donna con le palle. Dice sempre di lei il fan numero uno della candidata in pectore, vale a dire Silvio Berlusconi. E così rispunta sempre quel nome, Luisa Todini, invocata come una musa tutti i giorni da Berlusconi, perché coniugherebbe una scelta al di sopra di ogni sospetto con la certezza di avere una delle sue più fedeli alleate in un posto chiave. Todini, nome ricorrente per la sostituzione di Scajola. Vabbè, come detto, la politica, insomma, è tutta incentrata su questo tema. Dove taglieremo? Chi dovrà fare sacrifici? I parlamentari o gli italiani? La riduco così, insomma, in soldoni. È il nostro sondaggio, tra l'altro, è quello legato alla politica, se c'è una nuova Tangentopoli secondo voi. Sono le segnalazioni conclusive. C'è molto del Salone del Libro, dove ricordiamo noi ci siamo, Radio 24 al padiglione 2. Ieri è arrivato Saviano, tra i vari presenti. Saviano ha detto: sono rompiscatole, fiero di esserlo, avete sentito anche il GR, raccontare significa resistere. Non siamo a Cuba, in Cina o nel Venezuela, ma tutto quello che fai riescono a fartelo pagare lo stesso. C'è anche la polemica sulla legge sulle intercettazioni, il manifesto contro la legge delle intercettazioni, firmato da tutti gli editori, da tanti editori, tranne Einaudi e Mondadori, vale a dire gli editori riconducibili al presidente del Consiglio Berlusconi. È marketing editoriale. C'è anche un'intervista alla Stampa del direttore Mondadori, direttore generale dei libri, Ricky Cavallero, che dice: ci vogliono sottrarre gli autori, questo è il marketing editoriale di questa proposta, è una cosa sbagliata, ci vogliono portare via gli autori di successo, Questo è il motivo, è l'operazione commerciale camuffata di questo manifesto contro la legge sulle intercettazioni che è in discussione al Senato. Non c'è altra motivazione. Poi Ricky Cavallero parla dei Saviano, resta con la Mondadori, questa è la domanda. Oggi è saldamente con noi, del domani non c'è mai certezza. Così parlò il direttore Libri di Mondadori. Oh, io sono in conclusione. Non è che mi sono dimenticato che l'Inter ha vinto lo scudetto, però abbiate pietà di me. Che cosa vi devo dire? Cioè, l'Inter ha vinto lo scudetto. Peter sogghigna dall'altra parte del vetro. Sogghigna, ma è milanista anche lui come me. Non è che è sogghigna perché... Va bene, Inter d'Italia, c'è 18, accontentatevi del titolo della Gazzetta, ci sono paginate ovunque, leggetevele se siete contenti interisti, io ve le segnalo, compratevi i giornali e leggetevi, però non chiedetemi di leggervi anche le dichiarazioni tutte enfatiche, entusiaste degli interisti. Avete vinto, va bene, pare che non sia finita, chi lo sa, vedremo. Eccoci qua, ben ritrovati in diretta con 24 Mattino, è il nostro momento consueto dell'economia. Soldi e dintorni. E allora siamo con Deborah Rochard. Buongiorno e buon inizio settimana, caro anche amico a te, mio. Grazie. Ritorniamo a parlare di bebè, tema che ti piace tanto, lo so. Ah, ti vede molto coinvolto. Ho un'alternativa per l'asilo dei tuoi bambini. Piace l'ambiente, i tuoi bambini li porti al parco, spero. E come no, in qualche, certo. Non lo so, situazione di campagna, per esempio, in qualche fattoria li hai mai portati? Sì, sì, certo. Se sì, riesce, già ti vedo lì, guarda, con le oche, con le mucche, proprio lì a pascolare ti vedo parecchio. Dai, ti lascio al tuo lavoro, io invece stamattina... Una oca al pascolo non l'ho mai vista. Una oca al pascolo. Ce n'è solamente una qua, a soldi e dintorni, basta e avanza. Come mi dice sempre Filippo, starnazza, fai la prova dell'audio. Parliamo di cose serie invece stamattina. Stamattina a soldi e dintorni ci rivolgiamo alle famiglie con bimbi piccoli. Tra l'altro sono proprio queste le settimane, forse già tardi, in cui le famiglie che da settembre manderanno i bambini alla scuola materna sono alle prese con l'iscrizione e la prenotazione appunto di un posto in qualche magari asilo della zona. Ma sappiamo bene, ce ne siamo occupati anche in passato con una accurata indagine di Cittadinanza Attiva, quanto sia difficile trovare un posto oggi e soprattutto molto spesso, insomma, se poi ci si deve rivolgere alle strutture private, bilanci che non arrivano da nessuna parte perché le rette sono molto importanti e quindi è un bel problema. Detto questo, oggi parliamo di una forma molto particolare di asilo nido, un asilo nido all'interno di un grande spazio agricolo. È rivolto principalmente questo modello a quei comuni o piccole cittadine che si trovano ovviamente a stretto contatto con ambienti naturali. Una bella iniziativa sta partendo sulla scia di un progetto di Donne Impresa di Coldiretti. Noi stamattina siamo in collegamento con la responsabile Adriana Bucco, che saluto, benvenuta a Soldi e Dintorni e buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, voi state partendo, anzi siete già partiti, ma soprattutto sulla rampa di lancio ci sono tanti centri di questo tipo che sono pronti a decollare con gli Agri Asilo. Dottoressa Bucco, che cosa sono? Gli Agri Asilo sono una realtà bellissima e nuova. Diciamo che come tutte le iniziative della Coldiretti, anche questa nasce da un bisogno della società e da un bisogno anche delle aziende agricole. Il fatto che sia già partito questo progetto in via anche un po' sperimentale, alcune aziende si sono cimentate in questa nuova attività e abbiamo capito come questa nuova attività abbia un riscontro enorme nei cittadini e quindi abbiamo deciso di stilare un vademecum completo di informazioni sia per le aziende agricole stesse e anche per i genitori. Certo, perché immagino che poi non tutte le aziende agricole siano pronte ad allestire anche dei centri di questo tipo, ci vorrà anche del personale ad hoc da formare, ma intanto ci racconti un po' le esperienze che sono già partite, dove sono e quanti bambini state già ospitando? Dunque, le aziende che già operano sono una decina. Al momento sono nel nord, in diverse regioni del nord, mentre invece c'è una richiesta fortissima al sud di aziende intenzionate a fare questo percorso e che proprio ci hanno stimolato nella realizzazione di questa guida. Anche perché immaginiamo quali potrebbero essere gli sbocchi occupazionali in un frangente come questo. Certo. Ecco, pare un discorso molto interessante, infatti. Ma infatti questo è un progetto che va a toccare tantissimi ambiti. Il primo in assoluto è quello di dare reddito alle nostre imprese agricole, perché nell'ottica appunto della multifunzionalità, questo è un altro aspetto della multifunzionalità. Le nostre aziende agricole in questo momento stanno passando un momento di crisi molto forte, anche di dignità stessa degli imprenditori, e questo progetto può ridare un po' di linfa, nuova linfa alle nostre aziende. Ovviamente ci sono tantissimi problemi, come lei accennava prima, soprattutto di ordine igienico-sanitario. Molte aziende dovranno dotarsi di ciò che serve e di ciò che la legge impone per poter svolgere questo tipo di attività. Ecco, quindi quali requisiti deve avere un'azienda agricola, sulla base anche delle aziende che sono già partite con questa esperienza, per poter diventare un agriasilo, dottoressa Bucco? Beh, innanzitutto ci vogliono, cioè, rispetto di alcune norme che sono assolutamente regionali, sia per quanto riguarda gli spazi, cioè i metri quadri per ogni bambino, sia per quanto riguarda proprio l'organizzazione dello spazio all'interno dell'azienda. E poi ovviamente forse la cosa più importante in assoluto è proprio l'educatore. È ovvio che l'approccio didattico in un'azienda agricola è diverso da quello di un asilo, comunemente come noi lo pensiamo, lo immaginiamo, ma gli educatori devono avere una formazione in tal senso, e questo è una cosa importante, perché spesso all'interno delle nostre aziende agricole ci sono persone, figlie, figli o gli stessi imprenditori, che hanno la qualifica giusta per poter fare questo lavoro, ma che aspettando un ruolo, un posto nella scuola pubblica, hanno dovuto fare altro. Certo. E quindi hanno questa preparazione. Se non c'è, e allora qua si apre tutto uno sbocco, dove l'azienda dà lavoro a persone che invece questa qualifica ce l'hanno. Senta, è chiaro che lo spirito, ce lo diceva, di questa iniziativa è anche garantire soprattutto un certo tipo di ambiente al bambino, ma magari vediamo anche se l'aspetto economico per la famiglia può rappresentare un incentivo a frequentare un asilo di questo tipo, quindi un agriasilo. Siamo d'altronde a soldi e dintorni, dottoressa Bucco, quindi dobbiamo dare qualche indicazione concreta alle nostre famiglie. Gli esperimenti che state già facendo, quanto costano in media ad una famiglia che porta lì un piccolo? Allora, normalmente per le aziende che già lavorano, la retta mediamente si aggira sui 450 euro, che a differenza di un asilo normale comprende anche il servizio mensa. Ora noi, grazie anche a Deborah Rosciani ovviamente, ci siamo interrotti con questa breaking news. Ci fermiamo per la pubblicità, ripartiremo dal nostro sondaggio, parliamo dell'attualità politica, di tutte le polemiche sull'inchiesta del G8, le polemiche sulle case, sulle VIP, e la domanda che vi chiediamo è quella, è questa: c'è una nuova Tangentopoli in arrivo? Secondo voi è il clima da nuova Tangentopoli? Dovete votare su radio24.it, bianco o nero, ci trovate nell'home page, oppure se volete chiamarci 800 24 00 24. Sono le 8:34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le ultime notizie, come abbiamo sentito, dall'Afghanistan. Innanzitutto la conferma: due militari italiani sono morti, altri due sono rimasti gravemente feriti. Si trovavano a bordo di un veicolo Lince posizionato nel nucleo di testa di una colonna composta da vari automezzi partita da Herat e diretta a Bala Murghab. È esplosa una bomba e dalle prime ricostruzioni appunto risulta che due sono i feriti, i morti militari italiani, mentre due sono gravemente feriti. Vi terremo ovviamente costantemente aggiornati. Per quel che riguarda l'Italia, il ministro dell'economia Tremonti frena le ipotesi sull'imminente manovra per la correzione dei conti. Tutte voci confuse e confusionarie, ha detto il ministro, ma sembrano in bilico le grandi opere, secondo il Corriere della Sera, tra queste anche il ponte sullo stretto di Messina. Infine, per il calcio, l'Inter vince lo scudetto numero 18. Ieri la vittoria decisiva a Siena 1-0, ma il tecnico Mourinho ha tenuto un basso profilo e ha detto: questa non è la mia casa. Alle 8:35 minuti parliamo di politica, di Tangentopoli o nuova Tangentopoli, questa è la domanda del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Cioè, secondo voi c'è una nuova Tangentopoli? o arriva una nuova Tangentopoli? Questa è la domanda. Radio24.it per votare. Ovviamente parliamo di che cosa? La famosa lista Anemone, cioè questi 400 beneficiati da lavori che è uscita su tutti i giornali. La procura dice non c'è nessuna lista, qualcun altro ha detto guardate che è una lista del 2008 fatta uscire adesso, qualcun altro dice ancora è una lista di proscrizione, ancora altri dicono è una lista nella quale molti magari hanno pagato delle tapparelle, degli infissi e si vedono sbattuti in prima pagina sui giornali. Sta di fatto che sono coinvolti anche con nomi, vabbè, la vicenda della casa di Scajola, ma anche altri ministri. Oggi l'Italia dei Valori, il PD dicono soprattutto Bertolaso si deve dimettere. Stralci di verbali del suo interrogatorio sono finiti anche su alcuni giornali, Libero e Il Fatto, perquisiti i giornalisti che li hanno pubblicati. Insomma, il clima è quello che è. Dai retroscena dei giornali politici, molti retroscena sono questi. In Parlamento il clima è: oddio, chi è il prossimo? Allora, ne parliamo con due esponenti politici. Luigi De Magistris, eurodeputato dell'Italia dei Valori, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, grazie. Così come Osvaldo Napoli, buongiorno, deputato del Popolo della Libertà, buongiorno Napoli. Buongiorno a voi. Ci ascolta anche il direttore del Tempo, Mario Secchi, ben ritrovato Mario. Allora, De Magistris, lei ha detto che tra l'altro in questi giorni è uscito il suo nuovo libro, che è L'assalto al PM, no? Chiare lettere, in cui riepiloga un po' la sua vicenda. Le faccio dire, da ex magistrato, sente l'aria di Tangentopoli? Secondo lei è una nuova Tangentopoli? Peggio perché è un sistema fortemente intriso di corruzione e anche di criminalità organizzata. Questa, diciamo, è un po' una punta apicale, ma non è solo ovviamente la lista Anemone. La cosa grave è che sono metodi corruttivi che si realizzano attraverso apparenti strumenti di legalità, ordinanze, delibere, leggi, provvedimenti. È un sistema assolutamente trasversale per certi versi, seppur in queste ultime ore colpisce pesantemente il governo, Scajola, Verdini ed altri. È molto preoccupante poi perché non riguarda solo il rapporto tra politica e prenditori di soldi pubblici, perché tutto ruota attorno alla gestione illegale del denaro pubblico, ma quello che preoccupa molto è il coinvolgimento di pezzi significativi delle istituzioni, compresi organi di garanzia e persone preposte ai controlli di legalità. Lei dice peggio, ma questa lista sui giornali, cioè voglio dire che è uscita, potrebbe essere una lista di chi si è fatto le tapparelle e le ha pagate. Guardi, non è solo qua, a parte questo dimostra anche un poco il livello di decadenza che coinvolge l'intera vicenda, ma non è così. Noi ci troviamo di fronte a un imprenditore che è un po' curioso, a Roma ha ristrutturato, comunque insomma è intervenuto su abitazioni di lusso di tantissime persone, da ministri, altissimi funzionari, addirittura rappresentanti delle forze dell'ordine, e poi sappiamo tutti e sta venendo fuori che è legato ad appalti di opere pubbliche, e soprattutto sottolineo, e qui la mia esperienza di ex magistrato, le situazioni di emergenza, calamità naturale, emergenza ambientale e altro, dove la normativa consente la deroga all'applicazione delle norme sugli appalti, gli affidamenti diretti, che invece di essere utilizzati in modo corretto diventano occasione per dare affidamenti di opera agli amici e agli amici degli amici. Allora, tra l'altro io devo dire che su Radio 24 chi vota per ora il 73% dice sì, è una nuova Tangentopoli. Vorrei andare dall'onorevole Napoli. Ha detto è una nuova Tangentopoli o c'è un clima simile? Anche Giancarlo Capaldo, che è il procuratore aggiunto di Roma, ha fatto questa intervista molto importante a Libero il sabato nel weekend e ha detto sì, c'è quel clima, clima da Tangentopoli. Lei, onorevole Napoli, ha sentito De Magistris, dice anche peggio del 99. Certamente, vede, il libro di De Magistris è emblematico, chiarificatore, lo dico al collega De Magistris. Assalto ai PM. Beh, io devo dire a De Magistris, quando lui ed altri PM invece hanno assaltato le persone per bene, che sono poi state o addirittura prosciolte in istruttoria o addirittura assolte poi in un dibattito di tribunale. Quando si assalta la gente normale, la gente che poi è pulita, cosa succede? De Magistris direi che è un caso emblematico di questo. Vorrei ricordare soltanto tutta la sua inchiesta che è costata decine e decine di milioni per quanto riguarda il caso Catanzaro-Salerno, salvo poi trovare l'onorevole Pino Galati e l'onorevole Pittelli completamente prosciolti dopo essere stati buttati sui giornali e a tutti quanti i discorsi davanti all'opinione pubblica. Lei, sì. De Magistris forse ha pagato questo assalto alla gente normale. Quindi direi che il suo libro poteva essere impostato anche in maniera diversa. Per quanto riguarda invece il passaggio, ma l'ha letto lei Napoli? Io non l'ho ancora letto. Io ho preso il titolo, non ho letto, non ci tengo nemmeno a dover dare dei soldi a De Magistri con il suo passato di magistrato certamente non estremamente capace nell'individuare i reati. Vabbè, usciamo dalla polemica personale. Detto questo, se lei mi permette, il titolo Assalto ai PM credo al PM, credo a lui insomma. Mi comporta anche una piccola replica in termini di polemica politica, se no cosa stiamo a farci qua? Detto questo, perché non si può passare per moralisti quando i primi moralisti dovremmo essere noi. Detto questo, io non credo che sia una nuova Tangentopoli. La Tangentopoli iniziale, guardi, erano finanziamenti enormi che andavano quasi tutti ai partiti e in parte alle persone. Oggi noi abbiamo coinvolti 400 persone, bene ha fatto lei, in un elenco, a cui mi chiedo, ma quanti sono che hanno ricevuto un avviso di garanzia? Bene, e oggi c'è una contraddizione enorme. Abbiamo 1, 2, 3 su 400 che hanno avuto un avviso di garanzia, gli altri 390, diciamo così, non sono minimamente coinvolti se non al limite persone e conoscenza dei fatti. Dobbiamo un attimo capire qual è la legittima differenziazione fra questione eventualmente morale, perché come ha detto lei ci può essere quello che si è fatto mettere una porta e ha pagato, invece la questione penale. Questo è una bella differenza, però vede onorevole Napoli, qui vorrei coinvolgere Mario Secchi anche, che è direttore del Tempo, tra l'altro. Permetto un attimo una cosa che volevo dire, volevo fare i complimenti al direttore Secchi per il nuovo Tempo che è estremamente bello. E qua la sta ascoltando. Allora Secchi, la questione è questa: al di là del fatto Tangentopoli o no terrà il governo oppure no, c'è la questione che la gente, il popolo, quando ha letto anche solo degli infissi, le tapparelle o in alcuni casi le case comprate da chissà chi quando tutti abbiamo il mutuo, a me ha colpito molto Confalonieri, ha detto ma si facessero un mutuo i ministri come tutti gli italiani, no? Questo è quello che fa incazzare. Ha ragione Confalonieri, anche perché è persona saggia. Cioè in questo diciamo c'è un po' il clima di Tangentopoli, nel senso la gente è un po' stufa? Sì, se lei vuole usare un altro termine lo usiamo, la gente è incazzata, per dirla nel gergo giusto. Cioè qua la questione, Napoli ha ragione quando dice non è una nuova Tangentopoli, perché Tangentopoli era un sistema di finanziamento illegale dei partiti. Ma questo è peggio secondo me dal punto di vista della percezione, cioè noi siamo di fronte a un sistema di piccola e grande corruzione al fine di arricchimento personale, e se non è arricchimento è al fine di favore personale. Ora lei si metta nei panni del cittadino qualunque che, e quindi anche nei suoi panni, che paga il mutuo, che sbarca il lunario tutti i mesi, con mille difficoltà anche di fronte a uno Stato che è invaso completamente dalla burocrazia, e improvvisamente scopre che per vie brevi tutto questo era facile per chi rivestiva una carica pubblica, a destra e a sinistra. Lei come reagisce? Male, ovviamente. Certo. È per questo che io penso che in realtà dal punto di vista della percezione del cittadino questo caso rischia di essere più grave dal punto di vista politico. Guardi che la reazione di Berlusconi è molto interessante in questo, perché il Presidente del Consiglio è uomo che ha fiuto per gli umori del cittadino. E secondo me il Premier ha capito benissimo che questa storia è pericolosa dal punto di vista del consenso, e ha reagito bene anche, perché ha accettato le dimissioni di Scajola quando queste era evidente che dovevano essere accettate, e Scajola non doveva restare al suo posto di ministro per non imbarazzare l'istituzione al governo. Ha subito fatto suo il disegno di legge sulla lotta alla corruzione, e bene ha fatto, aggiungo, anche per non lasciare a Fini e alla Lega una bandiera che non è loro, visto che c'è la firma del Presidente del Consiglio su quel provvedimento. Ha già fatto sapere che non intende tollerare comportamenti poco chiari sia all'interno del partito sia a livello di incarichi di governo. Insomma, c'è una reazione ha reagito, è diversa da quella di altri casi. Ha reagito, no? Anche perché il concetto è sempre quello: la casa. Pare che quando si tocca la casa, che è qualcosa che per tutti gli italiani vale anche una vita, e allora lì no. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, c'è una nuova Tangentopoli, un rischio di... Il 74% di voi, continuando a votare, dice di sì. Sentiamo Salvo dalla provincia di Milano. Ci state chiamando all'800240024. Salvo, che fa? Sì, buongiorno. Buongiorno. Ma allora, innanzitutto io credo che non si debba parlare di una nuova Tangentopoli. Secondo me questa è esattamente la stessa Tangentopoli che c'è sempre stata in Italia dagli anni 90 ora. Sono cambiati un po' gli attori, alcuni hanno cambiato posto nel tavolo del gioco, da una sedia sono passati magari a un'altra, ma per il resto io non vedo nessuna differenza. A lei dà fastidio la casa, il mutuo, le dà fastidio, è un mutuo? Ma guardi, io purtroppo ho sulle spalle un mutuo e mezzo, uno della casa dove abito e un altro dove abita la mia ex moglie, quindi sono particolarmente sensibile su questo argomento. Qualcuno che le ha comprato un box? Magari ma io guardi, se ci fosse qualcuno che mi pagasse l'intera casa sarei felice, solo che io non ho nulla da dare in cambio, quindi è molto difficile che ci venga. Va bene, grazie. Vado a Leonardo, sempre da Milano. Buongiorno, Leonardo. Buongiorno. Sì, sono a un semaforo e spero di riuscire, a parte il nervosismo della mattinata, ad esprimere il mio parere. Non prendo la multa, io non gliela pago. No, è verde, viva voce. Va bene. Quindi sono perfettamente in regola. Io dico, da mia opinione, e che non c'è nessuna Tangentopoli. Mi spiace per l'ascoltatore Salvo, cui ho avuto l'occasione di sentire che lui è un po', come dire, attapirato da questa situazione, perché c'è un mutuo, come ce l'ha lui ce l'ho anch'io, però non c'è una nuova Tangentopoli, c'è soltanto dei vecchi pruriti che da sempre i politici hanno avuto, solo che c'è sempre chi è più furbo e lo sa mettere più in atto e c'è chi lo è meno, però non è certo fare gli untori come De Magistris, che sinceramente non ha nella sua vita spiccato per capacità investigative, per capacità costruttiva dal punto di vista dell'individuazione di colpe, anche perché abbiamo a tutti quanti, penso, assistito ai vari proscioglimenti, alla sussistenza e via dicendo. Vabbè, lei la pensa così. No, Leonardo, siccome tiene in ballo De Magistris, allora vuole rispondere un po', sia Napoli, dice, ma che ha fatto tutte le sue inchieste. Quello che colpisce, che Napoli, che di simpatico ha solamente il cognome, per la verità, è talmente accecato dall'astio che ha detto poco fa un falso talmente clamoroso che si dovrebbe vergognare. Cioè ha detto che Pittelli e Galati sono stati prosciolti, quando invece la procura di Salerno ha chiuso le indagini e ha contestato a Galati, Pittelli, al mio ex procuratore, al procuratore aggiunto e ad altri la corruzione in atti giudiziari con riferimento alla revoca di Posidone e alla vocazione di Why Not, quindi proprio le due inchieste che erano speculari a quella di Perugia. Quindi questi falsi sono veramente un'indecenza, può dire tutto, io rispetto le opinioni degli altri, ma pretendo che un parlamentare, prima di aprire la bocca, si informi e non dica delle cose assolutamente indegne, che anche l'ultimo uomo della strada, ormai leggendo i giornali, si è reso conto di questa vicenda. Quindi a me poi dà fastidio parlare di vicende che toccano gli interessi degli italiani ogni volta la si mette sulla polemica. Sì, la mette un po' su. Questo è vero, devo dire. Quando la invitiamo, spesso tutti dicono: ma De Magistris è quello che ha fatto il magistrato, non ha mandato tutte le inchieste, sono finite nel nulla. Perché hanno paura? Perché esattamente io ho messo le mani nel sistema, in quel sistema che Napoli conosce bene, che protegge con le leggi vergogna che lui e altri stanno approvando per favorire. Allora, prima che le risponda Napoli, mi dica De Magistris, perché lei è sempre molto critico a Berlusconi, però qualcuno, Secchi, ha sentito, ha detto: Berlusconi fa bene. E ha detto chi sbaglia paga, via Scaiola ha accettato le dimissioni, su questo secondo lei? Allora Berlusconi secondo me in questo momento, per la carica istituzionale che ha e per quello che ha fatto, il principale garante di questo sistema, ma si fa un errore se si ritiene che la nuova Tangentopoli, questo sistema collusivo tra gestione del denaro pubblico e criminalità dei colletti bianchi, riguardi solo Berlusconi o solo il centrodestra. Questo, oltre a dire un falso, si fa un errore politico per chi vuole costruire un'alternativa di governo a Berlusconi e al berlusconismo. Napoli vuole replica. No, però usciamo però dalla polemica personale. Adesso le vicende di De Magistris. La polemica politica, sì, di un personaggio che ha fatto alle spalle delle sue inchieste la carriera politica. Questa è la verità. Si è fatta della pubblicità perché, anziché dire del bugiardo a me, faccia una cosa ben fatta, l'onorevole De Magistris. Allora vada a smentire totalmente quanto scritto dal giornale, quanto scritto dal Riformista per quanto riguarda Galati e Pittelli, non da Osvaldo Napoli. Quindi prima di dire quelle parole altrettanto indecenti da parte sua, vada a leggere i giornali al mattino presto, come eventualmente faccio io. Forse avrebbe letto e avrebbe ribattuto, ripeto, minimo a due giornali, al Riformista e al Giornale. Lo avviso in maniera tale che lui possa andare a vedere i giornali precedenti. Quindi prima di dare quegli addebiti e anche quelle parole che secondo me io non mi sono permesso di dare nei suoi confronti, se non in termini di differenziazione di comportamento, sì, sarebbe stato molto più educato. Però a parte la cosa, la cosa più importante, Napoli ha detto De Magistris, secondo lui Berlusconi è il garante di questo sistema. Ecco, ma vede, questo è il metodo usato da De Magistris nella sua vita, ripeto, di magistrato e di politica. Berlusconi non ha bisogno di essere questo, perché io le ripeto a De Magistris, mi deve dire perché, per quanto riguarda la differenziazione, c'è bisogno di distinguere il profilo morale dal profilo penale. E questo oggi c'è, perché rispetto a tutti questi nomi lui non mi ha ancora detto niente. Vede, io sono uno che nella mia vita, contrariamente a lui, ho fatto il sindaco per 25 anni, anche in una cittadina di circa 20.000 abitanti. Sono stato certamente controllato, visto, non ho mai messo piedi in una procura della Repubblica, perché alcuni magistrati, non come lui, con la testa sul collo hanno controllato e hanno visto in maniera preventiva che non avevo nulla a che fare rispetto a quello che eventualmente qualche lettera anonima aveva fatto scrivere. Allora vengo a dire, ma come si fa a dire che Berlusconi è garante? Ma questa è un'offesa, devo dire, all'intelligenza dell'italiano. Berlusconi non può essere garante, infatti chiedo scusa anche di questo a De Magistris, ma lei ritiene che un uomo che riceve 500 perquisizioni nelle proprie aziende e che riceve 2.000 e passa dibattiti nel tribunale, non ci sia da parte di alcuna parte della magistratura un accanimento dico io nei suoi confronti? Va bene. Secondo De Magistris questo è normale? Allora, io questa domanda la lascio sospesa, ma vorrei chiudere con Mario Secchi, sempre il direttore del Tempo. Sì. C'è poi adesso questa corsa incredibile ai tagli, tutti che vogliono tagliare, cos'è? Hanno visto che insomma il clima, quando io leggo su Libero sulla testatina finisce male per 8 pagine consecutive sabato scorso, sì, insomma, tagliano perché finisce male, no? Tagliano perché hanno sentito aria di, non dico rivolta, insomma, nell'elettorato c'è scontentezza proprio per questa storia, e allora, siccome giustamente aveva fatto una manovra per tenere l'Italia nel club dei paesi europei di testa e così via, bisogna però nello stesso tempo che la politica dia il buon esempio, come si dice in questi giorni. Ma lo darà? Ma secondo me, io non so se lo darà, io penso che siano obbligati a darlo, è diverso, perché non possono pensare di fare una manovra da 25 miliardi, sacrosanta, aggiungo, senza però tirare la cinghia a loro per primi. E vi assicuro, basta leggere il Tempo in questi giorni, che di roba da sgrassare nella pubblica amministrazione e sui costi della politica ce n'è tanta. Assolutamente. A cominciare dal sistema pensionistico degli onorevoli, cui oggi raccontiamo sul Tempo. Nel sistema pensionistico degli onorevoli, oppure una piccola cosa, io la rimando ancora alla storia emblematica oggi sul Sole 24 Ore, le auto blu. È dal 91, tutti le auto blu, non si riesce neanche a contarle, a sapere quante sono dal 91. Comunque ringrazio sia Luigi De Magistris, Osvaldo Napoli e Mario Secchi, direttore del Tempo. Ci fermiamo qui con Sara Spreafico in redazione e Peter Bescapè in regia. E allora, bianco o nero, è Radio24.it, dalla linea Oscar Giannino. A domani.